sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sto osservando, come ogni mattina faccio prima di iniziare a parlare in questo programma, le prime reazioni di quella parte del pubblico che mi segue attraverso la rete. È notorio che Melog abbia una sua interfaccia nel social network in cui un gruppo di privilegiati, poi non sono nemmeno tanto pochi, ormai sono una decina di migliaia di persone, hanno anticipazioni su quello che è l'argomento del giorno, hanno possibilità di integrarlo, di dare comunque degli spunti. Queste persone si muovono in una sorta di dimensione parallela rispetto alla realtà concreta che in realtà vivono gli ascoltatori che seguono alla radio, seguono tradizionalmente il programma ascoltandolo dalla radio e occupati nelle loro attività quotidiane, chi in questo momento sta in automobile, chi sta seduto al suo tavolo, chi si è appena alzato fortunatamente e ascolta attraverso la radio. Questi due mondi in qualche maniera entrano in collisione tra loro quando io riferisco alla radio quello che mi stanno scrivendo le persone che stanno nella rete. E quando le persone che stanno in rete, attraverso una maniera impropria, impropria nel senso che segue un uso ancora non diffuso, ancora non totalmente diffuso negli ascoltatori, ascoltano la trasmissione attraverso magari il loro computer, attraverso le cuffiette del loro telefonino mentre si muovono. Si muovono e allo stesso tempo fanno qualcosa che normalmente altre persone fanno in condizione statica, in condizione diciamo di coesistenza con le loro attività quotidiane. Questa mattina è interessante vedere come questi due mondi entreranno in collisione, proprio perché voglio parlare del rapporto fra concreto e inconcreto, fra reale e digitale, tra territorio, territorio inteso come vie, strade, città, edifici, urbanizzazione, infrastrutture, cosa pubblica e cosa privata, e il mondo digitale. Guardate che è un rapporto complesso e anche molto ambiguo, si fanno fior di convegni, si discute, ci sono summit con eccelse persone che parlano del nostro paese, del digital divide, di quanto noi siamo arretrati o siamo avanzati rispetto al percepire la grande innovazione, la grande novità del fatto che esista una rete, esista una possibilità di incontrarsi anche in maniera incorporea, che esista una possibilità di velocizzare i rapporti tra le persone, che esista una possibilità di rendere gli esseri umani partecipativi di un grande disegno comune, di un grande archivio, di una grande memoria che permetterà di ampliare, di espandere le nostre memorie organiche. Sono tutte belle parole, ma queste parole devono poi essere concretizzate in alcuni progetti. Si sta muovendo qualcosa in Italia in maniera molto difficoltosa, in maniera sporadica, molto basato su iniziative personali o su grandi iniziative pubbliche che molte volte sono molto facilmente appetibili di facciata, poi quando si va a vedere, si va a concretizzare, si chiede di vedere le carte, si capisce che in realtà dietro l'idea del digitale esiste anche tutta una serie di persone, di istituzioni, di mostri sacri, di guru che hanno fatto di questo è il loro lavoro, e io diffido molto dal professionismo dell'ideologia. Questa mattina vorrei parlare di territorio e digitale, di quanto il territorio possa entrare in contatto virtuoso, in contatto proficuo con il mondo digitale, quando queste due realtà, quella invisibile, incorporea apparentemente di difficoltà ulteriore di accesso rispetto alla normale percorrenza di luoghi fisici, e quella dei luoghi fisici che potrebbe essere corroborata, facilitata, fluidificata nel rapporto concreto che ogni essere umano ha con i luoghi. 800240024, al di là di quello che ho appena anticipato, cominciate a considerare ogni giorno quello che voi avete di rapporto di coincidenza fra la rete, fra la vostra frequentazione della rete, fra i vostri amici con i quali fate social networking, fra i sistemi e i feed che vi arrivano ogni giorno, i flussi che vi arrivano ogni giorno di informazioni dalla rete e i flussi che ogni giorno percorrete fisicamente nel vostro territorio. Inizio subito a cercare di dare delle strutturazioni concrete al discorso che sto facendo con Andrea Granelli. Granelli, buongiorno. Buongiorno. Andrea Granelli ha fondato Canso, che è una società di consulenza che è proprio basata sull'idea dell'innovazione, ma però è interessante perché si è inventato di aprire una discussione, un convegno proprio legato al digitale che può intervenire a ridare vita o ridare vivacità o a presentare di nuovi aspetti nei borghi e nei centri storici. Ecco, è possibile fare un punto alla luce del convegno che hai fatto, la tua esperienza? Tu sono decenni che ti occupi di mondo digitale, sei stato fra i precursori di Italia Online con Grauso, che parliamo ancora della preistoria dell'approccio del digitale in Italia, quindi hai visto il nostro paese come si rapportava rispetto a questa realtà. Ecco, il punto oggi qual è? Il territorio concreto quanto comincia a ispirarsi alle dinamiche del digitale? Ma io penso che incominci a farlo, ma come dicevi giustamente tu, c'è ancora uno iato che va ricomposto, digitale da una parte e fisico dall'altro. Il problema è far interagire questi due mondi, i mondi sono complementari e probabilmente è proprio la dimensione dei centri antichi che può essere forse l'area più interessante, da una parte perché sono elementi fisici che quindi hanno la fisicità che va gestita, c'è un tema di trasporto, di controllo, di sicurezza, di efficienza energetica, dall'altra c'è proprio la dimensione virtuale e simbolica, perché l'edificio storico in quanto tale ha una dimensione simbolica e va capita e interpretata, e quindi mi sembrerebbero, come dire, il modo migliore. Però dobbiamo proprio ritornare e partire dai problemi delle città, dai problemi degli utenti. La cosa che a me preoccupa molto dell'informatica e del digitale è questo concetto di tecnologia abilitante, no? Si può fare tutto. Recentemente ho letto un libro molto bello che ha scritto Sini, il filosofo, sul tema degli automi e delle tecnologie, una delle tesi del libro dicendo: io sono convinto, e vado contro alcune regole filosofiche, che non esiste mezzo senza fine. Ecco, questo è forse il problema di oggi. Dobbiamo ripartire dai fini, le modalità, le priorità, l'urbanistica, la pianificazione, e da lì poi vedere quali sono le tecnologie anche migliori. Perché se no si esauriscono tutte le energie nella demonizzazione del mezzo o nella glorificazione esagerata del mezzo. Oggi abbiamo dei mistici della rete che si fanno dei bei convegni, delle belle chiacchierate, dei bei pipponi fra di loro, ma in realtà non fanno avanzare quello che è la posta di uso della rete. Allo stesso tempo dei denigratori della rete che, denigrandola, in realtà ne accrescono l'aspetto teologico, diventa quasi una divinità. Questo secondo te è utile alla integrazione fra rete e territorio? Sicuramente sì. Se uno volessimo interpretarlo in senso psicanalitico, dobbiamo passare da una visione infantile, polarizzata, tutto buono, tutto cattivo, a una visione matura, dove la tecnologia ha anche un lato oscuro che va compreso. Bisogna capire le dimensioni problematiche non per essere ingabbiati, ma per poter pensare. E allora la città, soprattutto le città storiche, sono meravigliose, possono crollare. Sono problemi reali dove si può esercitare la tecnologia per conservarle, per avvertirle. C'è il tema dei controlli, della sensoristica, del monitoraggio. Quindi io penso che delle volte, per uscire, come dicevi, da questa illusione puramente dialettica, si tratta di affrontare temi veri, concreti, fisici. Allora la città è molto fisica, la città va vissuta, la città è complessa, va manutenuta, inquina, va attraversata, va difesa, va raccontata. Ecco, io penso che oggi in questo mondo dove della rete, che spesso è pura conversazione, dove uno fa politica per fare un post su un blog e si sente che ha fatto le sue cose, bisogna ritornare anche alla dimensione prestazionale, alla dimensione artigiana, a far accadere le cose, toccare. Cito, concludo con una frase che artigiana, che a me piace molto, di Lévi-Strauss, che parla dell'artigiano che seduce la forma. Questo, ritorniamo a fare delle cose. Ecco, la città è un ottimo laboratorio, e poi le nostre città, essendo antiche, sono veramente il ponte tra passato e futuro, dove la sintesi anche non solo tra fisico e immateriale, ma anche tra innovazione e tradizione può essere un grande laboratorio. Quindi io ritengo che oggi le città, soprattutto le piccole città, perché per la loro dimensione piccola, per il fatto che c'è una catena corta decisionale, quindi un sindaco illuminato può effettivamente fare delle cose, potrebbero essere un grande laboratorio a livello internazionale per riportare un dialogo più giusto tra digitale e fisico. Se non sbaglio, sembra uno dei paesi più calblati in Italia, Sovria Mannelli, un paesino della Calabria, dove sono 4 vecchie, 7 capre. Però è il paese più cablato, perché lì c'è stato un sindaco che è riuscito a farlo. Nessuno gli ha messo i bastoni tra le ruote. Vorrei fare un passo avanti con Andrea Rossetti. Andrea, buongiorno. Buongiorno, Gianluca, buongiorno. Docente di filosofia del diritto e informatica giuridica presso l'Università Bicocca di Milano. Andrea, hai seguito con attenzione, immagino, quello che stiamo dicendo, però non possiamo non corroborarlo rispetto a quella che è la notizia del giorno oggi. L'Italia sembra si sia conquistata un primato, o perlomeno un quasi primato, di iniziare a considerare la rete, i valori della rete, le possibilità di uso della rete come qualcosa che vada fortemente controllato in maniera preventiva. Alla luce della sentenza Google di cui si parla questa mattina, come vedi l'idea che noi stiamo in questo momento accarezzando, di territorio concreto e territorio digitale possono trovare delle vie virtuose d'incontro? Ma effettivamente la sentenza di stamattina, o almeno diciamo, la vulgata della sentenza, poi, perché la sentenza dice una cosa un po' diversa, insomma, rispetto a quella che viene che è stata veicolata dai mass media, no? Perché i capi di imputazione a Google erano due: diffamazione e appunto violazione della privacy, e il giudice ha assolto da una parte, cioè per la diffamazione, e invece condannato per la violazione della privacy. Quindi non è che Google abbia perso, nella migliore ipotesi ha pareggiato. Però effettivamente i media di tutto il mondo si stanno concentrando sul fatto che Google è stato stato condannato per aver violato la privacy, perché sembra, qui facciamo delle illazioni, perché in realtà il giudice non ha ancora prodotto le motivazioni della sentenza, quindi non sappiamo davvero quali sono le motivazioni di questa sentenza, però sembra che il giudice italiano ritenga che Google debba controllare tutto il materiale o abbia responsabilità su tutto il materiale che viene messo in rete. Questo viola una delle idee fondamentali di quello che è il Web 2.0, di cui né tu né io, Gianluca, siamo particolari fans, voglio dire, però effettivamente sembra bloccare un diritto alla partecipazione che in Occidente alla partecipazione, alla comunicazione, in qualche modo alla costruzione di comunità radicate sul territorio, a volte comunità invece staccate al territorio, che noi abbiamo dato in questi anni per scontato. Ed è davvero una sentenza pesante che insomma all'estero soprattutto viene concepita come liberticida in qualche maniera, insomma. Anche qui poi il governo italiano si dimostra abbastanza schizofrenico in questo, no? Il governo richiede proprio in questi giorni la diminuzione di una legge che regolamenti le intercettazioni al fine di rendere l'intercettazione telefonica, al fine di rendere i cittadini più liberi e meno controllati, dall'altra però propone provvedimenti di cui la sentenza è uno, che di fatto cercano di controllare in qualche maniera a priori quello che i cittadini vogliono condividere in rete. È una cosa veramente pesante, insomma, che tendenzialmente bloccherebbe, se effettivamente applicata fino in fondo, bloccherebbe lo sviluppo della rete come l'abbiamo concepita fino ad oggi. Granelli, cosa ne dici? Ma io, allora, a parte che questa c'è la spaccatura tra un ente legislativo, cioè chi fa le leggi, il governo e i giudici, no? Quindi effettivamente questa è cosa già vista. Io ritengo che il problema ancora una volta è molto complesso, noi dovremmo cercare di non polarizzarlo, buoni e cattivi, ma il problema esiste, cioè effettivamente, come dire, uno se pubblica in Italia delle cose che sono criminose, che sono incitamento alla violenza, è punito. Adesso il fatto che poi queste realtà, che poi sono potentissime e ricchissime, perché sono gli operatori più ricchi del mondo, non possono creare dei processi un pochino più robusti per provare a intervenire quando ci sono delle violazioni, è o tutto o nulla, ecco, questo mi preoccupa. Mi preoccupa anche la reazione, che è sempre polarizzata, cioè serve una discussione per me più profonda, dove esistono anche, no, come diceva, in medias ad virtus, ci sono anche dei punti di vista intermedi. Io vorrei far intervenire adesso Pierciro Galeone. Buongiorno. Buongiorno. Segretario generale Fondazione Città Anci Ricerche. In pratica lei si occupa delle realtà dei piccoli comuni. Sì, noi ci occupiamo delle città più grandi, ma anche dei piccoli comuni. Il 70% dei comuni italiani ha meno di 5.000 abitanti. Ecco, come vede realizzabile e possibile questo incontro, e in che misura poi è stato già concretamente realizzato, noi abbiamo citato un esempio a caso, fra realtà cittadine, realtà dei comuni e il mondo digitale, che sembra, come vede, un mondo caricato di grandi tensioni, di grandi emotività e anche di grandi contraddizioni? Allora, innanzitutto, questo è un matrimonio che deve essere fatto, questo fra nuove tecnologie e comuni minori, e il motivo è per come è fatta l'Italia, no? L'Italia è un paese piccolo, in fondo, è lungo 1200 chilometri, quindi nulla rispetto, che devo dire, all'antica muraglia cinese sono 10.000 chilometri, quella in muratura sono 6.400 chilometri, però in questo paese piccolo ci sono intanto 8.000 comuni, uno diverso dall'altro. Ci sono, devo dire, 3.400 musei sparsi per il territorio nazionale, non concentrati solo nelle città d'arte, 2.000 siti archeologici. Allora, il patrimonio dell'Italia è fortemente decentrato. Si può parlare anche di un'altra ricchezza italiana, che è quella della tradizione alimentare, gastronomica, la quale siamo. Sì, mettiamole tutte assieme, proprio pensiamole e concepiamole come se fossero organizzate in un albero di navigazione di una grande realtà digitale. L'Italia è già una rete, di suo, e questa rete va connessa con le nuove tecnologie. Io direi che i piccoli comuni hanno ancora più bisogno delle grandi città. Certo, di essere connessi. Ahimè, la storia recente ci fa un po' brividire. Una volta si tentò di fare un grande portale con tutte le realtà italiane, fu una delle più spaventose e disastrose sperimentazioni mai viste. No, ma perché quella è un'idea alla francese, di fare la grande capitale del digitale. Quello che ci permette la rete è quello di mantenere la nostra tradizione, che è di forte decentramento. Quindi secondo lei l'idea vera sarebbe non di partire con il grande cappellone nazionale pensato dal potere centrale, ma di cominciare a creare un coordinamento fra tutte le piccole realtà periferiche? dite? Guarda, diamo libertà ai comuni di muoversi, diamogli qualche incentivo, qualche spinta, ma non più di tanto. Il resto, la rete è fatta apposta per connettersi gli uni con gli altri. Cioè, facciamo lavorare i 6.000 comuni sotto i 5.000 abitanti e quelli faranno la rete. E dopo? Ci sarà il modo per mettere motori di ricerca, filtri, siti, ma quello arriverà dopo. Intanto mettiamo facciamoli correre i comuni italiani, che quando li abbiamo lasciati liberi hanno sempre fatto grandi cose. Però Granelli, ti pongo una domanda un po' tecnica che spero che ci ascolta riesca a comprendere e integrare. Perché poi funzioni l'idea della grande rete, occorre avere almeno dei livelli di omogeneità fra le iniziative. Non è che ogni comune può fare la sua realtà digitale per conto suo, poi troveremo tante maniere di difficoltà di colloquio. Chi dovrebbe dare i protocolli generali per tutti, le linee guida per tutti? Questo è uno dei grandi problemi. Allora, il mondo tecnico si esercita e ha concepito delle cose importanti, gli standard, le interfacce, ma io penso che oggi il problema, quindi condivido il punto di Galeone in generale, il problema che a me preoccupa è che c'è un problema gigantesco di competenze. Cioè oggi forse la pianificazione urbana è forse il mestiere più complicato, quindi un piccolo sindaco che cosa sa delle tecnologie innovative, delle nuove metodologie del design, come può anche da solo strutturarsi? Quindi se noi non facciamo partire un vero processo, tra l'altro in Italia non c'è l'ENA, le connessioni. Ma da chi dovrebbe partire? Secondo me dovrebbe essere un'attività che potrebbe partire dallo Stato come processo di formazione. Pensiamo insomma il concetto di alte scuole, teoricamente non sono, è introdotto e integrato con competenze tecniche, perché se non formiamo, a mio modo di vedere, gli amministratori locali della capacità di programmare le tecnologie, di fare piani urbanistici integrati col digitale, di capire anche i lati oscuri della tecnica, teoricamente è bello dire decentriamo, ma semplicemente ribaltiamo il problema ad altri. Poi ci sarà sempre il sindaco illuminato del comune X che va sui giornali, ma il problema sono gli altri 7.400 o 7.990. Quindi penso che ci sia un grande problema di formazione non tecnica, non sullo strumento, un misto di strumento e finalità, che è la pianificazione urbana, secondo me. Andrea, sei ancora in linea? Andrea Rossetti? Sì, ci sono. Volevo sapere, te con la Bicocca avete fatto delle sperimentazioni legate, non so, a certi momenti di espressione del proprio consenso in occasione di appuntamenti elettorali, via dicendo? Quanto realmente trovi che alcuni apparati della cosa pubblica abbiano sensibilità verso questa possibilità di collegare il cittadino con alcuni strumenti di consenso, di giudizio, di interfaccia non tradizionalmente strutturati? La nostra ricerca in realtà sta molto deludente, è una ricerca locale che riguardava fondamentalmente Milano. In realtà ci siamo resi conto che i politici non usano i nostri social network o comunque la rete per comunicare, d'altronde neppure i cittadini sono abituati a usare questi strumenti, il cittadino medio insomma è abituato a utilizzare questi strumenti per comunicare. Di conseguenza, quando si svolge un dialogo, molto spesso un dialogo tra sordi, nel senso che c'è un sito del politico che viene usato a mo' di manifesto, sotto ci sono i commenti dei suoi eventuali elettori o detrattori che però vengono tranquillamente ignorati. E quindi la comunicazione che noi abbiamo visto è praticamente inesistente. È un problema di cultura questo, no? Perché probabilmente in altri stati, insomma ad esempio Obama, che in questi casi viene fatto quasi sempre, la cultura, la diffusione dell'idea dell'uso dell'informatica è maggiore, della possibilità, o forse più in generale è maggiore l'idea di poter partecipare alla costruzione di un discorso politico. Invece in Italia c'è una certa disaffezione generale verso questi temi, disaffezione che si riflette secondo me anche nell'uso che i partiti e i politici fanno di questi strumenti, che potenzialmente sono molto potenti. Andrea, grazie, ci fermiamo un secondo perché incombono le informazioni dalla borsa, gli ascoltatori possono chiamare come stanno già facendo molti, li vedo già pronti in linea per intervenire, 800 24 00 24, la vostra esperienza personale, individuale, rispetto a quello che stiamo dicendo. Una parte esiste il mondo concreto, esistono le istituzioni, esiste la vostra città, il vostro territorio, e l'altra parte esiste il mondo in concreto che pur in qualche maniera ognuno di voi sta percorrendo, anche inconsapevolmente, anche l'abilmente, anche indirettamente. Il mondo digitale incombe su di voi, sulla vostra famiglia, incombe, non è un senso di minaccia, perlomeno è in contatto con voi, con i vostri figli, con le vostre famiglie, con il vostro luogo di lavoro. Avete un computer acceso davanti nella maggior parte delle vostre esperienze lavorative. Ecco, quando questi due mondi potranno entrare veramente in contatto e quanto ancora tempo passerà per cui rimangano due realtà totalmente distinte? Melog 2.0. Ho 800 24 00 24. Ci siamo incamminati in un percorso tortuoso, anche piuttosto difficile, anche ostico per qualcuno che vorrebbe sentir parlare ancora dei cascami del Festival di Sanremo, ma stiamo parlando di quello che in realtà sarà il destino di molte le persone che ci stanno ascoltando. Riflettevo con gli ospiti con studio questa mattina che sempre più amici che io conosco, amici miei, persone che frequento, installano un computer a casa dei genitori, dei nonni, dove attraverso Skype possono vedere i loro nipotini e possono avere dei conforti quotidiani e di vicinanza con la famiglia, superando il fatto che essere vicini significa essere concretamente, fisicamente, sensorialmente vicini. La prolunga, la propaggine della nostra emotività che ci permette lo strumento digitale è una maniera di appagare il nostro desiderio, la nostra ansia di esistere nell'emotività altrui. Lo dimostra il fatto con infinità di signore, signorine, ragionieri, impiegati, esimi professori che seguono questa trasmissione e poi mi confessano in privato di mettere in crisi le loro relazioni abituali, la loro tenuta emotiva per persone che hanno visto, conosciuto e lambito attraverso strumenti informatici. Se il mondo digitale permette l'espandersi delle emozioni, perché queste emozioni non possono tracimare dal mondo individuale, dal proprio universo personale, a il mondo collettivo, alle città, alle istituzioni. Lo stiamo facendo questa mattina in studio Andrea Granelli, che è fondatore di Canso, società di consulenza focalizzata sui temi di innovazione, e Mario Abis, che finora ho tenuto in silenzio, ma è un amico e me lo posso permettere, che è amministratore delegato alla Macno e Consulting, che è docente di ricerche psicosociali sul consumatore e sull'opinione pubblica dello IULM di Milano. Mario Abis, velocemente una battuta. Noi stiamo analizzando il problema informatico, il problema tecnologico, il problema urbanistico, ma nelle città ci vivono esseri umani. I rapporti sociali che normalmente, tradizionalmente si allacciano o si censurano, si frustrano nelle città, come potrebbero cambiare e mutare se la città diventasse un grande social network? Sì, il tema è questo, il tema è capire come il territorio possa diventare, uscire dalla sua fisicità passiva e diventare un sistema interattivo grazie alla tecnologia digitale, un po' quello che diceva Andrea Granelli prima, cioè capire come la tecnologia digitale possa essere uno strumento di pianificazione urbanistica. Questo è il problema. Non è tanto il tema della relazione, della comunicazione, dell'ascolto, ma è proprio il tema di come questo strumento possa diventare infrastruttura nelle città. Perché è vero quello che diceva il dottor Galeone prima, che noi abbiamo una polverizzazione di piccole città in Italia, però è anche vero che la trasformazione delle città è legata soprattutto al fatto che le città italiane, come in tutto il mondo, diventano grandi aree metropolitane, diventano sistemi sempre più incontrollabili di allargamento del territorio. Che significa che cosa? Tutta una serie di processi di mobilità, per esempio. La mobilità nelle aree metropolitane, che è legato al tempo del lavoro e al tempo libero, ne abbiamo parlato già altre volte, è tutto un tema che ha un bisogno di una infrastruttura digitale. Pensiamo solo, penso che più avanti dei nostri amici tecnologi ne riparleranno, tutto il tema dei flussi di traffico legati all'informazione, no? Come la tecnologia digitale può dare in tempo reale un'informazione su che ottimizzi i processi di mobilità. Viene a pensare oggi con questa parola su cui molti si riempiono la bocca, però è qualcosa che concretamente esiste, la realtà aumentata. Noi potremmo sovrascrivere rispetto all'architettura della città un'infinità di informazioni percepibili attraverso, certo, degli strumenti personali individuali. La città, di fatti, il territorio è un gigantesco media da questo punto di vista. Questa è la tua vecchia teoria, che il vero media oggi è il territorio. Il vero media oggi sono i luoghi fisici, che incorporano pezzi di materialità, compresa la tecnologia. Ma arrivando sul concreto, ad esempio, tutti i processi informativi sull'ottimizzazione in termini di domanda sociale della città, i luoghi del tempo libero, per esempio, un'area metropolitana, come informo dove andare, cosa fare, cosa c'è, cosa succede. Le vestigia storiche si animerebbero per esempio, di un'informazione. Quindi la città come strumento di informazione, di relazione ai due livelli delle popolazioni, perché le città sono per chi ci vive, ed è un tema che tocca le cose già introdotte da Andrea prima, cioè il tema della sicurezza, il tema dell'energia, il tema della salute, per esempio. Noi dobbiamo riorganizzare i territori con le nuove malattie, la popolazione che invecchia, dislocando nuove strutture di assistenza sanitaria in cui il processo di relazione e di informazione è molto importante. Ma poi c'è il tema di chi le città non ci vive ma le usa, gli famosi city user, quelli che ci entrano, che ci arrivano con motivazioni diverse e rispetto ai quali il tema dell'informazione della città, che si informa e dà delle relazioni, a cominciare dal turismo per esempio, è un punto fondamentale di digitalizzazione. Devo dare dei contenuti a questo processo, come dicevi, di relazione che trasforma la città in un social network. Ecco, vorrei capire poi quanto invece questo è tecnicamente possibile, qual è lo stato dell'opera, quanto le città sono ricettive, sono cablate e sono pronte a essere delle fornitrici di informazioni, di suggestioni e di emozioni per chi le attraversa. Abbiamo al telefono Stefano Pileri, buongiorno. Sì, buongiorno. Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Noi stiamo parlando di una grande utopia, ma in che termini è realizzabile tecnicamente questa utopia secondo lei? Dunque, è realizzabile con due cose. Uno, innanzitutto, è un presupposto, diciamo, di tecnologie, di infrastrutture di comunicazione, che è il primo presupposto importante, e poi il secondo, ne avete parlato durante la trasmissione, delle applicazioni che consentono la digitalizzazione delle attività e dei processi che si svolgono nella città. Il punto base necessario cos'è? Una bella rete funzionale, potente, ovunque? Sì, una rete potente ovunque. Noi come siamo messi nel nostro paese? Abbiamo una rete, diciamo, a banda larga, sia con accesso fisso che mobile. Il primo più o meno nel 90% delle città, quindi banda larga fissa. Abbiamo ancora un 10% scoperto, sono un po' i paesini più piccoli, circa 4.000 di questi, che non dispongono oggi di, diciamo, di strutture adeguate a banda larga, e un po' di meno sulla parte mobile, ma come sapete consideriamo oggi la parte fissa come ancora quella indispensabile, anche se il fatto della mobilità anche dal punto di vista delle comunicazioni sta crescendo di importanza. Quindi abbiamo ancora un 10% di linee, che vuol dire all'incirca 600-700 mila persone che non hanno una connessione adeguata. Sulla qualità di questa connessione, Pileri? Sì. Sulla qualità, diciamo, della connessione media che c'è in Italia, della rete che c'è in Italia, quanto è veloce, quanto è funzionante, quanto è realisticamente usabile per iniziative abbastanza stressanti. La tecnologia, allora, innanzitutto è buona, nel senso che disponiamo in Italia di una tecnologia, almeno in questo 90% dove esiste la connettività a banda larga, di tipo ADSL sostanzialmente, ancora non c'è ancora fibra ottica, poi ne parlerò un flash dopo, e con una velocità dell'ordine di alcuni megabit al secondo. I marketing dicono fino a 20 megabit al secondo, 20 milioni di bit al secondo, ma non è così, e quindi abbiamo alcuni megabit al secondo, ma che comunque danno delle buone prestazioni, almeno alla stragrande maggioranza delle persone. Certamente il discorso diverso è sulle imprese. Sulle imprese bisogna già utilizzare da oggi il mezzo in fibra ottica. Sulla rete mobile siamo una realtà veramente significativa nel mondo. Abbiamo una rete mobile, tutti gli operatori che oggi operano in Italia dispongono di rete mobile, che è ancora considerato un esempio importante in Europa e nel mondo. Per però cui devo dire, guardi, io devo essere Pileri, onesto, vedo gli ascoltatori, mi stanno seguendo su Facebook, non so se è per nostro costume lamentarsi, in realtà quando noi abbiamo detto che in Italia c'è una buona copertura di rete, di buona qualità, sono tutti insorti nel dire ma quando mai, come mai, ma di che stiamo parlando? Mobile fissa come? No, in generale, sulla parte mobile non ne parliamo, anche sulla parte fissa, da varie parti mi stanno dicendo ma qui non c'è, qui funziona poco, qui è debole la rete. È possibile fare un rapporto rispetto, diciamo, ad altri paesi europei nella nostra condizione di cablaggio? Senz'altro sì. Rispetto all'Europa noi abbiamo una situazione, diciamo, confrontabile con i migliori, che sono la Germania e la Francia. Dobbiamo ovviamente i migliori nel senso di grandi paesi europei, siamo inferiori invece ai paesi nordici, che quindi Svezia, quindi Norvegia, quindi Olanda, che invece dispongono storicamente di una rete a connessione a banda larga più forte, più performante rispetto al nostro caso. Secondo lei è plausibile anche nel nostro paese avere, come in tanti paesi, a volte anche addirittura di quello che chiamiamo terzo mondo, un accesso pubblico e gratuito alla rete? Ma guardi, gli accessi pubblici e gratuiti possono essere importanti, utili e perlomeno in certe aree particolari, immagino, alcuni luoghi... Sì, in alcune aree particolari sì, lo condivido questo tipo di impostazione, alcune città lo stanno facendo, ma certamente non può essere una regola, ma non può essere, nel senso che non avrà in nessun caso, chiunque lo faccia, i mezzi per poi sostenerlo, per farlo crescere come prestazioni e pure renderlo effettivamente fruibile. Il gratis non esiste nelle tecnologie e ovviamente in tutta l'industria. Certo, qualcuno deve fare degli investimenti, gli investimenti poi devono essere coperti, questo lo sappiamo, nessuno può regalare qualcosa che costa lavoro, costa investimento, costa fatica. Sentiamo qualche ascoltatore. Federico. Pronto? Eccomi. Buongiorno, sono Federico. Ho sentito il suo interlocutore adesso che parlava soprattutto di infrastrutture, che siamo ben cablati, tante belle cose, però io mi sono messo in macchina poc'anzi e ero uscito appena da un ufficio finanziario dove per portare un pezzo di carta, ieri ho chiamato per un fax, per un'email certificata, gli uffici non hanno email certificate, nel senso che se facciamo le infrastrutture però non addestriamo le persone per ricevere determinati documenti elettronici, le infrastrutture non servono a niente, ahimè. Lo dice a me che ancora devo andare a fare dei bollettini, ancora mi chiedono un fax a fronte di un bonifico fatto in banca, quindi lo so e benissimo. Io chiedo una pecca all'Agenzia delle Entrate, che ha obbligato noi professionisti, no, lo Stato ci ha obbligato. Lei che professione svolge? Sono un dottore commercialista. Un commercialista, quindi sa bene che... Quindi io con la telematica ci lavoro per spedire dichiarazioni, per fare i pagamenti. Però se io devo mandare un documento e chiedo scusa, mi dà la vostra PEC, l'Agenzia delle Entrate, o almeno l'ufficio in cui sono stato io, non ha la PEC, non ha, e io dal 30 novembre sono obbligato ad avere una PEC. Un altro indirizzo di posta elettronica con altre password, altre user. È la posta elettronica certificata, esatto. che ha valore di documento. Ha valore di raccomandata, cioè se io spedisco una PEC ad un'altra PEC, non mi si può dire non è stata ricevuta. Cioè senza peccato scagli la prima pietra però in questo caso. Quindi è vero che abbiamo fibra ottica, quello che vogliamo, se però le persone che stanno dall'altra parte non riescono a interagire con noi dal punto di vista telematico, cioè non fanno uno sforzo. Questo è chiaro. Granelli, velocemente, Andrea Granelli, perché la protesta del pubblico non posso ignorarla, lo scontro quotidiano e reale dei cittadini che hanno una attitudine e una frequentazione con gli strumenti digitali, dire ma poi ci troviamo davanti a un muro di gomma, a una impenetrabilità della cosa pubblica. Come riusciamo a dare, non dico conforto, ma perlomeno soluzione a questo dubbio? Ma io penso che, come dire, ognuno deve fare un po' la sua parte. Come nelle urbanistiche nascono le progettazioni partecipate, bisogna che gli utenti aiutino più gli operatori. Insomma, il punto di vista di Pileri era comprensibile, un grande operatore mette le reti, no? Dopodiché se la gente fa richieste estemporanee non funziona. Quindi dovremmo proprio trovare dei nuovi tavoli di progettazione. Serve una metodologia per dare anima alle tecnologie digitali. Da sole non si muovono, non basta il concetto di tecnologia abilitante. Melog 2.0. È assai difficile anche riuscire a stabilire quali possono essere le priorità in questo disegno che affascina tutti noi, che fa parte dell'impegno professionale di tante persone, anche del desiderio di lavorare meglio di tanti ascoltatori. Ha chiamato prima il dottore commercialista che è perfettamente in linea con i tempi che sta vivendo, è professionalmente aggiornato, avanzato, il suo upgrade l'ha fatto, però quando va in un ufficio a portare il frutto del suo lavoro trova qualcosa che non funziona. Ed altresì vedo le tantissime proteste delle persone che dicono sì, ma mi portano un'infinità di esempi in cui in realtà poi la cosa pubblica, coloro che poi dovrebbero dare gli strumenti reali e concreti per far interagire pubblico e privato, per far interagire concreto e inconcreto, per mettere in comunicazione questi mondi, da una parte ci affascinano, per gran parte di noi sono stati considerati delle esperienze ludico, delle esperienze relazionali, ma forse questo è il momento in cui ciò con cui abbiamo giocherellato, abbiamo sognato, ci siamo conosciuti, abbiamo passato tanto tempo, diventi qualcosa che si applica concretamente sul territorio. Andrea Granelli, che è in studio con me, fondatore di Canso, società di consulenza sui temi dell'innovazione, che ha lanciato questo tema della possibile digitalizzazione, perlomeno dell'entrata, l'idea digitale nei borghi e centri storici. Stiamo nella pausa per il traffico parlando proprio della gestione della realtà aumentata, forse proprio questo è il senso, considerare una sorta di bel vestito che serve a comunicare, dare idee diverse del territorio costruito con il mondo digitale, ma chi deve stabilire cosa si fa per primo, chi lo gestisce, perché non diventi uno spot di tante iniziative belle, fantasmagoriche, ma come se fosse il grande festival dell'innovazione che non porta poi a risultati concreti per i cittadini. Io penso che debbano essere le istituzioni, si debba introdurre una vera, cosa che adesso sta capitando anche nei grandi lavori di urbanistica sofisticati, la progettazione partecipata, cioè il rischio, usando adesso le metafore urbanistiche, che la realtà, la città aumentata, quindi quello strato di informazioni di dimensioni simboliche delle città, ancora più importante se le città sono d'arte, quindi ad alto contenuto, è che è un approccio vernacolare, ognuno si fa la sua casa. In Italia poi, come sapete, l'approccio vernacolare ha creato speculazione edilizia, quindi io penso che è l'idea della proloco che prevale sull'idea dell'istituzione. Sì, ognuno si fa la sua casetta e si fa l'estensione del piano, no? Mi faccio il fai da te, che è quella che viene chiamata appunto anche architettura vernacolare. Io penso invece che dobbiamo ricostruire dei tavoli di pianificazione, diciamo, partecipata, ma ci vuole per far questo una cultura tecnica degli amministratori, bisogna dargli delle competenze. Giorgio Goggi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giorgio Goggi è professore e docente di urbanistica al Politecnico di Milano. Su questa idea che abbiamo sollevato adesso dell'architettura vernacolare applicata alla realtà aumentata, quindi al mondo digitale, cosa ha da dire lei? Ma sicuramente l'urbanistica è ormai stata molto modificata dalle nuove tecnologie. Basti pensare che una volta degli studenti del Politecnico che dovevano fare un'esercitazione di urbanistica passavano giorni a procurarsi le mappe e soprattutto le foto aeree erano difficili da trovare. Oggi chiunque in un'aula si può collegare Wi-Fi con il suo computer personale e su Google Earth vede le foto aeree di tutta l'Italia e di tutto il mondo. Voi siete fortunati perché una volta sono stato chiamato un mese fa a fare un intervento a Scienza della Comunicazione a Roma, non avevano la rete, gli studenti facevano le esercitazioni con la carta e penna su un block notice. Beh, invece da noi abbiamo il wifi in tutte le aule, ma questo modifica anche i modi per fare la partecipazione nei piani urbanistici. È possibile ormai fare i piani regolatori aprendo un sito in cui tutti i cittadini possono esprimere i loro pareri, quindi avendo delle consultazioni dirette, aprendo un blog in cui tutti possono fare le loro osservazioni e avere delle risposte. E anche in molte situazioni amministrative, in molti comuni, esistono dei blog che consentono un dialogo tra l'amministrazione e i cittadini. Secondo lei, proprio dal suo punto di vista, esiste, considerato il problema da un duplice osservatore, è maggiormente grave il problema di arretratezza, di desiderio e volontà di colmare il digital divide da parte dei cittadini? Cioè, i cittadini sono meno attrezzati di quanto possa essere già le strutture pubbliche pronte ad accogliere il loro desiderio di essere informati, o è la struttura pubblica che non è adeguata rispetto a una realtà digitale già abbastanza sedimentata nei cittadini? Molti parlano di centri storici o di elite o di università o di persone che hanno la filosofia di internet nel sangue, ma io sono convinto che in realtà le periferie, i cosiddetti coatti, siano quelli più attrezzati ad entrare in contatto con il mondo digitale, perché usano gli strumenti in maniera naturale, non danno dei carichi mistici al mondo digitale. Sicuramente sono i cittadini più avanzati. I cittadini capiscono subito la nuova tecnologia, se ne appropriano e non si rendono neanche conto dei salti che fanno rispetto alla situazione precedente. Le amministrazioni fanno molto più fatica. Le amministrazioni potrebbero utilizzare in modo molto più produttivo gli strumenti che sono già a disposizione, ma spesso hanno delle difficoltà a farlo. Posso fare solo un esempio. Oggi con i telepass e tutti gli strumenti che ci sono sulle auto, i telefonini e altre cose, è possibile fare delle indagini di traffico, soprattutto le indagini di origine e destinazione, che sono molto costose, molto difficili da fare, semplicemente interrogando questi strumenti e individuando le auto che si muovono, ma gli strumenti amministrativi per fare tutto ciò non esistono, nonostante che la tecnologia sia già matura. Lei mi dà la possibilità di fare la domanda all'ultimo ospite, ne avevo tanti questa mattina, ma erano molte le persone che avevano desiderio, voglia, competenza per intervenire. A Giuliano Noci, buongiorno. Buongiorno. Professore e docente di marketing al Politecnico di Milano. Ecco, quello che ha detto il suo collega poco fa mi fa pensare quanto in realtà non ci sia la fantasia di usare le tecnologie anche un passo avanti rispetto alla loro destinazione d'uso primario. Quanto si potrebbe fare con le tecnologie che nessuno ancora immagina che sia possibile fare? Ma in verità si potrebbe fare moltissimo. Io concordo con gli ospiti che mi hanno preceduto dicendo che abbiamo un sistema a due velocità. Il sistema è la società comune che evolve molto rapidamente, i coatti che utilizzano N tecnologie. Abbiamo oltre 20 milioni di italiani che interagiscono in modo nuovo con il mondo dell'offerta. Il pubblico, ma anche le imprese private, sono molto indietro. Viaggiamo a due velocità. Che cosa fare con le tecnologie? Cosa ci potranno aiutare le tecnologie? Al di là di quello che è già stato detto, io credo che le tecnologie entreranno nei nostri flussi della vita, negli interstizi della vita. Quando noi saremo, siamo fermi alla metropolitana aspettando il metro, quando noi andiamo in autostrada o per strada, utilizzando come punto di incontro tra mondo fisico e mondo virtuale, avremo probabilmente il cellulare. Il cellulare che è un oggetto che ha perso la sua funzione d'uso, da un qualcosa che veniva ascoltato a un qualcosa che viene visto e digitato. In questo vedo il futuro. Ecco, lei sfonda porte aperte, riempie il mio cuore di gioia, le sa quanto, o sa chi mi ascolta, sia convinto che ciò che ci rende umani è veramente la tecnologia, e rendo conto che ogni essere umano ormai ha la sua interfaccia con il mondo proprio con il telefono cellulare. Il più detestato, il più vilipeso, il più sbeffeggiato oggetto di status in realtà è la prima espansione tecnologica verso il resto del mondo. Ci sentiamo la prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.